Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. La storia non sempre è nei musei. Può passare per esempio dai locali in cui si sono esibiti per la prima volta quei cantanti o gruppi che sono entrati nella leggenda. New York, anni 20. Siamo in pieno proibizionismo, una stagione in cui molti vivono sulla soglia della legalità tra alcol di contrabbando, belle donne, inseguimenti e notti in bianco. Il gangster Oney Madden ha aperto ad Harlem il Cotton Club, ritrovo chic raccontato dall'omonimo film di Coppola. I neri non possono entrare, ma se passano dalla porta sul retro, possono salire sul palco e dare il via al loro magico jazz. E una sera, il grande Duke Ellington viene lanciato verso la fama internazionale. I'll never have figured you out. It's funny, I know all about you. I can imitate your walk. The way you play your cornet. Alla fine degli anni 50, al numero 10 di Matthew Street, Liverpool, c'è un vecchio magazzino interrato che durante la guerra veniva usato come rifugio antiaereo. Alan Seitner, il proprietario, si è ispirato alle Cavo Francais Jazz Club di Parigi e ne ha tratto un locale non esattamente confortevole. La scala è ripida e buia e manca il sistema di aerazione, per cui il calore corporeo si condensa sul soffitto trasformandosi in acqua e gronda lungo i muri sul pavimento. All'inizio non si può suonare altro che jazz, ma di fronte alle ondate dei giovani che sull'onda di Elvis vogliono il rock and roll, bisogna arrendersi. Ed è in questo momento, precisamente il 9 febbraio del 1961, che per la prima di 300 volte calcano il palco del Cavern gli ancora sconosciuti Beatles. ...1965, Roma. In quello che era un cinema abbandonato che Vittorio Gassman aveva pensato di recuperare, sorge il club più eccentrico dell'Italia del boom, il mitico Piper. Lolite, musica, balli e tanti sogni, Roma, febbraio 1965, nasce il tempio della musica, della ribellione, della generazione beat shake, nasce il Piper Club. Tutto, dal palco alla pista, è studiato nei particolari. Impianto sonoro all'avanguardia, quadri di Andy Warhol, Schifano, opere di Piero Manzoni. La sala è illuminata da 350 luci stroboscopiche multicolori e sulla pista svettano cubi luminosi su cui le ragazze più spigliate salgono a ballare, finalmente libere. Alla serata inaugurale suonano i due gruppi del momento, The Rockies e gli Equipe 84, mentre una giovane che si scatena diventa l'icona di una generazione leggera, brillante, intraprendente. È la ragazza del Piper, Patti Pravo. New York, Bowery, metà anni 70. In questa zona multietnica, vicino a Chinatown e Little Italy, Hilly Crystal mette in piedi un locale per la musica country, blues e bluegrass, da cui l'acronimo CBGB, stampato a chiare lettere sull'ingresso. Ma siccome nel 73 è crollato il Mercer Arts Center, i gruppi underground sono tutti in cerca di un posto per suonare. Ed è così che presto il CBGB ospita la nascita e diventa punto di riferimento del punk americano. I Ramones cominciano da questo palco e così Patti Smith. Accanto ai Television debuttano anche i Blondie, i Talking Heads, tutti destinati a un successo mondiale. Ma è un decennio prima, nel magico momento delle controculture, che a San Francisco un uomo dà vita al sogno. Benvenuti al mitico club Fillmore di Bill Graham. Bill Graham. Be sure to San Francisco. Ne ha fatta di strada Bill Graham prima di approdare in California. Ha camminato con i piedi e con lo spirito, cambiando luoghi e il suo modo di vedere il mondo. Tra tragedie e felicità, come sempre, sono gli incontri del destino che danno vita alla storia di ognuno. Nascere nella Berlino del 1931 significa avere a che fare con una terribile parentesi storica. Anche per colpa della crisi di Wall Street di 2 anni prima, il nazismo sta avendo la sua occasione. I lavoratori delusi dal socialismo e dalla democrazia, i milioni di disoccupati, così come i gruppi dirigenti di industria ed esercito, nonché della burocrazia, intravedono in Hitler l'uomo giusto, capace di riconquistare prestigio e potere. Dittatura, razzismo e guerra che si avvicina. E questo è il contesto in cui cresce Bill Graham. A peggiorare le cose è la sua origine ebraica. Il vero nome di Bill è Volodya Grajonka e la sua famiglia di ceto medio-basso era emigrata in Germania dalla Russia qualche anno prima. Con un padre morto appena 2 giorni dopo la sua nascita e una madre sola con 6 figli da sfamare, non c'è altra soluzione che l'orfanotrofio. Ero piccolo, ma quegli anni me li ricordo bene. Ricordo che mia madre mi aveva mandato lì con mia sorella più piccola, Tania, che chiamavamo tutti Tolla. Lei era spaventata, io cercavo di rassicurarla, ma anch'io in fondo ero soltanto un bambino che doveva cavarsela. Mentre le sorelle più grandi restano a Berlino con la mamma e cercano di sopravvivere alle persecuzioni naziste nascondendosi in rifugi di fortuna e facendosi aiutare da qualche amico di buon cuore, a Bill e Tania le cose vanno un po' meglio, per quello che può significare la parola meglio in questo contesto. L'olocausto vero e proprio non è ancora cominciato e l'orfanotrofio li manda in Francia per uno scambio con orfani di fede cristiana. Riescono così a sopravvivere, mentre la mamma morirà ad Auschwitz. Quando la guerra finisce, Bill Graham è un ragazzino che ne ha già passate di tutti i colori, ma si rimbocca le maniche e incomincia a costruirsi un futuro. Va in America, dove viene accolto da una famiglia del Bronx, New York, un quartiere multiraziale dove la violenza e l'intolleranza sono all'ordine del giorno. Per via del suo accento tedesco, gli danno continuamente del nazista, un dolore profondo che gli resterà dentro per sempre. Era una cosa terribile. I ragazzi del quartiere mi urlavano nazista, mi facevano trovare le svastiche disegnate davanti a casa. Non sapevano che mia madre e i miei amici erano stati ammazzati proprio dai nazisti, ma non me l'hanno mai chiesto. È così che Volodya Grajonka diventa Bill Graham, per sfuggire a un destino che sembra quello di un eterno perseguitato. Una mattina prende la guida del telefono, chiude gli occhi e la apre a caso, capitando nel suo nuovo cognome. Il nome lo sceglie tra i più diffusi e dal significato di poco conto, proprio lui che ha un passato già così pesante. All'università, lo studente qualunque Bill Graham perfeziona il suo inglese, tanto che ormai la sua origine viene percepita solo dagli ascoltatori più raffinati. E nel 1951, anche se non è ancora ufficialmente un cittadino americano a tutti gli effetti, viene arruolato nell'esercito degli Stati Uniti. Ad attenderlo c'è la guerra di Corea, cominciata l'anno prima, quando per colpa di tensioni irrisolte, la Corea del Nord aveva invaso la Corea del Sud, di dominio americano. Una guerra sanguinosissima e tra fratelli. Abituato a dare il meglio in ogni campo, Bill Graham, combattendo, si guadagna la stella di bronzo e anche il Purple Heart, vale a dire la più vecchia onorificenza delle forze armate. Ma mentre torna a casa, in testa ha già 1000 nuovi sogni. Una volta rientrato dalla guerra di Corea, Bill Graham deve trovarsi un lavoro. Impresse nella memoria ha ancora le immagini della violenza che ha visto con i suoi stessi occhi, ma il dolore non l'ha mai fermato, anzi, al contrario, è stato un motore di riscatto. Dalla sua parte, questa volta, c'è un momento di grande fermento americano, gli anni 50. Di mese in mese aumentano le nascite, dando origine a un vero e proprio baby boom. Ma sono i giovani, insofferenti alla morale borghese, ad essere i grandi protagonisti della società. Vogliono divertirsi, trasgredire, stare con le ragazze che a loro volta, in gonne a ruote e girovita strettissimi, cominciano ad appendere il grembiule da cucina al chiodo e ad emanciparsi con studio e lavoro. Fioriscono i drive-in, nei bar spuntano i mitici jukebox che con una monetina mandano Elvis Presley. E al cinema è il momento degli antieroi un po' dannati, in motocicletta, jeans e capelli schiacciati dalla brillantina, che hanno i volti di James Dean e Marlon Brando. Il primo è il ribelle senza causa e senza bandiera di Gioventù bruciata. Il secondo, il randagio, romantico e rozzo protagonista di Il selvaggio. Tu non sei altro che una cameriera. Perché tuo padre è poliziotto, credi di potermi dire quello che devo fare, per caso? Nessuno me l'ha mai detto a me, sai? Guarda che se m'arrabbio spacco tutto quello che c'è qui senza pensarci due volte, ti avverto. Ehi, birra! Che facciamo, Johnny? Partiamo? Non ancora. Bill Graham, in linea con la ribellione del periodo, non sogna il posto fisso e la tranquillità della vita tra le quattro solite mura. Ha fame di esperienze e vive alla giornata cercando di mantenersi come può. Per questo, quando un amico gli dice che stanno cercando un cameriere al resort di Catskill Mountain, a nord dello stato di New York, accetta senza pensarci troppo. In fondo, la sua vita è sempre stata questa, di un avventuriere un po' per scelta e un po' per destino. Ogni volta ricominciavo da capo. Penso alla mia vita come a una serie di capitoli che una volta chiusi sono stati chiusi per sempre e via con uno nuovo. Non mi sono fatto mancare nulla, ma posso dire di aver vissuto. Il resort non è un posto qualsiasi. Enorme, frequentatissimo, con clienti che cambiano di giorno in giorno, tutto fa sì che Graham, di natura ben disposto a chiacchierare anche con chi non conosce, incontri un sacco di nuovi amici. Soprattutto perché, oltre a fare il cameriere, sa giocare benissimo a poker. Le giornate non passano mai tutte uguali, tra qualche ora di lavoro, una partita e i concerti. Tito Puente, musicista portoricano noto per il suo Latin jazz, si esibisce spesso qui e Bill lo tormenta perché gli insegni lo spagnolo. Quante risate ci siamo fatti io e Tito! Lui era di qualche anno più grande, il pomeriggio cercava di fare le prove e io mi mettevo lì finché non cominciava a parlarmi in spagnolo. È così che l'ho imparato. Ma anche questa è una parentesi, per quanto stimolante. Bill decide che è arrivato il momento di cambiare aria. E siccome sua sorella Rita adesso vive a San Francisco, la va a trovare. È un momento di grande fermento, siamo nel 1960, e Frisco è il cuore della cultura alternativa. Le vie della città sono popolate dai beatnik, i ragazzi della Beat Generation, nomadi che basano la loro esistenza seguendo le leggi di natura, pacifisti, completamente disinteressati all'accumulo di denaro. Con il loro abbigliamento anticonvenzionale e i capelli lunghi, rifiutano la cultura puritana e borghese, si dedicano al jazz, alla letteratura e sperimentano ogni tipo di sostanza. Sulla scia di Kerouac, Ginsberg, Ferlinghetti e gli altri, ricercano i piaceri e l'eccitazione, ma anche la spiritualità. In questo clima di tolleranza e apertura fioriscono anche i movimenti per i diritti degli omosessuali, di cui un paladino è Harvey Milk. Da qualche parte a Des Moines o a San Antonio c'è un giovane gay che ha improvvisamente realizzato di essere gay e sa che se i genitori lo scoprissero sarebbe buttato fuori di casa, che i suoi compagni di classe lo prenderebbero di mira. E allora quel bambino ha diverse opzioni: nascondersi o suicidarsi. Ma un giorno quel bambino potrebbe aprire un giornale e scoprire che un omosessuale è stato eletto a San Francisco e che ci sono due nuove opzioni: andare in California. L'opzione è andare in California. O stare a San Antonio e combattere. Bill Graham non è mai stato così felice. Non gli importa di dormire sul divano. È questa ricchezza di stimoli quello che stava cercando. Una sera lo invitano al Golden Gate Park, un polmone verde ancora più grande di Central Park, dove si tiene un concerto gratuito. La folla sotto al palco è infinita e l'atmosfera speciale. Non solo giovani, ma anche anziani e famiglie con bambini. Bill incontra i membri del San Francisco Mime Troupe, un gruppo teatrale che inizia a seguire abitualmente fino a diventare, nel 1965, il loro manager. D'altra parte, il più grande talento di Graham è sempre stato quello di sapersi riciclare. Creativo e con un incredibile fiuto per gli affari, ha l'occasione di dimostrare quanto vale quando il leader del gruppo, Ronnie Davis, viene arrestato con l'accusa di aver fatto atti osceni durante un'esibizione. Bill ha un'intuizione geniale. Occupa una sala da ballo del Fillmore Auditorium e organizza uno spettacolo di beneficenza per rimediare alle spese legali per la compagnia. Siccome sono tutti i sostenitori della causa, partecipano tra gli altri i Jefferson Airplane, The Fugs, Sandy Bull e il John Handy Quintet. È un grande successo e l'inizio di un altro nuovo capitolo della sua vita. Il più grande, il più importante, quello con le pagine destinate a entrare nella storia. Look into her eyes. Do you see what I mean? Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo a metà degli anni 60 e nella San Francisco Beat, cuore delle controculture dove sta fiorendo il movimento hippie, il giovane Bill Graham ha finalmente trovato la sua strada. Figlio di ebrei immigrati a Berlino dalla Russia, ha perso sua madre per colpa dei nazisti. È cresciuto in fretta ed è approdato in una New York che non l'ha subito accolto benissimo. Ma lui, risoluto e intelligente, ha studiato inglese ed è diventato un cittadino americano modello, tanto che si è arruolato nell'esercito ed è andato a combattere in Corea. Il suo destino l'ha poi portato a lavorare in un resort come cameriere, dove tra un servizio al tavolo e una partita di poker ha imparato lo spagnolo dal grande musicista portoricano Tito Puente, finché ha deciso di spostarsi in California, dove già viveva sua sorella. E forte della sua passione per la musica e del suo fiuto per gli affari, è diventato manager di un gruppo teatrale, il San Francisco Mime Troupe. A San Francisco in quegli anni si respirava un'atmosfera di libertà che non c'era in nessun altro posto. Nessuno giudicava gli altri e si lottava tutti insieme per i diritti delle minoranze. Ci si lasciava andare ad ogni esperienza perché eravamo voraci di vita e c'era una fertilità sul piano artistico mai vista prima. Graham diventa presto abilissimo nell'organizzare eventi e capisce che deve mollare il gruppo se vuole diventare promoter di concerti a tempo pieno. Ha già messo in piedi un grande show al Fillmore Auditorium e vuole replicare sempre lì, nel grande locale all'incrocio tra Fillmore Street e Geary Boulevard. Nonostante i ripetuti interventi della polizia, desiderosa di placare la rivoluzione culturale pacifica, ma vista dalle istituzioni come socialmente pericolosa, Graham ha pubblico e artisti dalla sua parte e in poco tempo riesce a diventare un punto di riferimento per la musica nuova. The Grateful Dead, Jefferson Airplane, The Doors, Jimi Hendrix Experience. Questi sono solo alcuni dei grandi nomi che si esibiscono al Fillmore guidato da Bill Graham. Tutti vogliono suonare qui perché da qui si entra nella storia. Graham è eclettico, lungimirante, organizza sit-in, free concerts, ospita una stand-up comedy scomoda come quella di Lenny Bruce. E una sera, mentre sul palco c'è la Paul Butterfield Blues Band, qualcuno cerca di intrufolarsi senza pagare il biglietto. Bill Graham è nel suo ufficio e sta contando gli incassi della sera prima quando sente il rumore di una finestra che si rompe. Non fa in tempo ad alzarsi per andare a vedere cosa sia successo, che il servizio d'ordine gli porta, tirandolo per un braccio, un ragazzo sui 20 anni, il cui volto rivela un'origine ispanica. Senza che Graham dica una sola parola, lui si giustifica. Non avevo i soldi per il biglietto, ma volevo a tutti i costi sentire la band suonare. Per questo ho cercato di entrare dalla finestra. La musica è quello che ho sempre sognato di fare anch'io. Ed è così che Bill Graham, intenerito nei confronti di un ragazzo immigrato proprio come lui anni prima, gli mette in mano una chitarra e gli chiede, nel suo spagnolo impreciso imparato da Tito Puente, di fargli sentire qualcosa. Poche note, ma abbastanza da rimanere a bocca aperta. Vuole sapere subito il suo nome. La risposta è Carlos Santana. Carlos Santana. Dime mi amor, cuánto amor y te dolor. Le estati sono torride in Messico e a poco servono le pale del ventilatore che girano veloci sul soffitto il 20 luglio 1947, quando ad Autlan de Navarro, non troppo lontano da Guadalajara, viene alla luce il piccolo Carlos Santana. È il quarto di sette figli, cresce in una famiglia dove si superano sempre dignitosamente le difficoltà economiche e dove la musica non manca mai. Papà José è un mariachi. Vestito con il tradizionale charro, gira con il suo violino per le feste, celebra con le sue note calde le occasioni e, su richiesta degli innamorati, dedica struggenti serenate alle donne affacciate alle finestre. Un po' come nella trilogia del mariachi di Robert Rodriguez, composta dai film El Mariachi, Desperado e C'era una volta in Messico, dove la tradizione si mescola al thriller in salsa pulp, dando vita al cosiddetto burrito western. Niente musica? Perché? Sono un mariachi, molto bravo. Suono canzoni d'amore, melodie d'altri tempi, ballate e composizioni mie. Ah, e a me che mi importa? Darebbe più stile, no? Più classe a questo locale. Lavoro per poco o quasi niente. Vivo solamente delle mance che mi danno. Però quello che mi interessa è avere un lavoro stabile. E le garantisco molti clienti in più. E che me ne faccio io di un mariachi? Dal momento che ho un'orchestrina intera. Carlos impara presto a suonare il violino. Si allena tanto da farsi venire le piaghe alle dita e si costruisce così un personalissimo gusto per le note sostenute e per il controllo dell'intonazione. Se è vero che la vita del mariachi è nomade, vero è anche che ci sono luoghi dove è più facile trovare un motivo per suonare. La famiglia Santana, per seguire papà José, si trasferisce allora a Tijuana, la città di frontiera, regno della perdizione. Negli anni 50 ancora non c'è il muro tristemente famoso che separa Tijuana da San Diego, scavalcando il quale i clandestini cercano di emigrare, aiutati, si fa per dire, dai coyotes, corrispettivo messicano degli scafisti. I gringos americani e i militari della base di San Diego, protetti dall'occhio di riguardo riservato a chi porta dollari, cercano qui droga, prostitute e alcol. Attraverso la radio, invece, i giovani messicani ascoltano il rock and roll. Carlos mette via il violino e incomincia a suonare la chitarra. Impara da autodidatta, sognando John Lee Hooker, T-Bone Walker, B.B. King. Avevo già capito che nel mio destino c'era la musica, ma cominciavo a rendermi conto che il mio strumento era la chitarra. Dal primo momento che l'ho presa in braccio, ho provato un brivido, un'emozione mai provata. Dalle strade, Carlos passa a suonare nei locali e tra uno spogliarello, una rissa scoppiata per una sciocchezza e qualche bisca più o meno alla luce del sole, riesce a mantenersi da solo, grazie agli ingaggi delle serate. Per questo, quando i suoi genitori nel 1963 decidono di trasferirsi a San Francisco, cerca di convincerli in tutti i modi a partire senza di lui. Ma anche se è un musicista avviato, non è grande abbastanza. Lo aspettano in California il ritorno a scuola e lo studio di una lingua tutta nuova. Dai locali malfamati di Tijuana all'affrisco della ribellione, lo shock è notevole. Carlos, magrissimo, riccioluto, per sopravvivere fa il lavapiatti e il pelapatate. Ma siccome il richiamo della musica non si può ignorare a lungo, mette anche in piedi un gruppo con altri chicanos del quartiere latinoamericano della città. Suonano ritmi alla Tito Puente, ma la chitarra di Santana è tutta un'altra cosa rispetto agli standard del periodo. Svisate, innato senso della melodia, improvvisazioni, tremolii e influenze altre. Andavamo ad ascoltare gli hippies che suonavano le percussioni all'Aquatic Park di Frisco. Era bello vedere le ragazze che ballavano scuotendo selvaggiamente i fianchi come danzatrici del ventre. Allora abbiamo pensato, visto che le percussioni latine funzionano, mettiamole su un impianto rock. Mescoliamo con qualche suggestione blues e jazz. Il gioco è fatto. La prima volta che l'impresario Bill Graham, intuito proverbiale e voglia di rischiare, si ritrova ad ascoltare il tocco di chitarra di Santana, resta senza parole. Il ragazzo si è intrufolato nel suo locale, il Fillmore, rompendo una finestra per riuscire a vedere il concerto della Paul Butterfield Blues Band senza pagare il biglietto. E adesso il destino gli sta offrendo la sua occasione. Graham gli offre subito il palco del Fillmore, ma ad aspettarlo c'è quello di Woodstock, il più grande evento rock di tutti i tempi. We'll be right back. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo nella San Francisco ribelle di fine anni 60, quella che ha visto fiorire la letteratura beat, quella degli hippies, quella che rivendica i diritti civili per le minoranze, ma anche la città che ospita il Fillmore, il tempio del rock. È stato Bill Graham, impresario dalle mille vite, il primo a portare nelle sale del grande auditorium all'incrocio tra Fillmore Street e Geary Boulevard gruppi ancora sconosciuti, ma che diventeranno celeberrimi come i Jefferson Airplane, i Grateful Dead. E adesso ha appena scoperto per caso il talento straordinario di un ragazzo messicano che con la sua chitarra lascia senza parole, Carlos Santana. Graham gli chiede di esibirsi al Fillmore. E il giovane, figlio di un mariachi che per sbarcare il lunario suonava per i Gringos a Tijuana, non crede alle sue orecchie. Il Fillmore era un mito per tutti. Salire su quel palcoscenico significava farcela. E mi sembrava incredibile trovarmi dietro le quinte dove la sera prima avevano suonato i miei idoli. Se il concerto di Santana con i suoi musicisti, un misto di rock e ritmi latini trascinanti, è un grande successo, si capisce subito che lui, il magrissimo e riccioluto chitarrista, ha davvero una marcia in più. E infatti Graham non ha intenzione di lasciarselo scappare. Quando nel locale stanno registrando il disco The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Cooper, e Bloomfield dopo la seconda serata entra in crisi e non vuole più suonare, è proprio Santana a prendere il suo posto, facendo dunque il suo primo passo nella discografia ufficiale. Bill Graham diventa manager di Santana e della sua band e trova per loro un ingaggio alla Columbia, dove sotto la guida del produttore Dave Rubinson cominciano a registrare a gennaio del 1969. Le difficoltà iniziali sono tante, a partire dagli stessi suoni, troppo sottili, nonostante i virtuosismi del leader alla chitarra. E poi manca il materiale, o meglio, le canzoni ci sono, ma sembrano un po' tutte uguali, basate su un ritmo rock afro-cubano che i musicisti tengono come riferimento aperto per poi lanciarsi, non appena possibile, nelle loro fantasie strumentali. Ascoltando i primi demo, Graham teme di aver preso un abbaglio. Non c'eravamo per niente. Suonavano come una jam band. Si dilungavano in assoli. Invece io spingevo perché facessero canzoni bomba per la radio. Solo così Santana sarebbe davvero diventato qualcuno. Presto, con i consigli di Graham e qualche cambiamento nella formazione, arriva il singolo giusto, Evil Ways. Abbastanza efficace per entrare nella testa del pubblico. La band a maggio ritorna in studio e registra di nuovo tutto con un effetto irresistibile. Il suono è una perfetta e mai sentita prima sintesi di rock latino, con i ritmi ricchi della salsa, la scoperta di un nuovo jazz. Graham ci crede con tutto se stesso, ma non altrettanto fa la Columbia, che si tiene i nastri e li mette in un cassetto, liquidando il tutto con un vago «in futuro si vedrà». Nel frattempo, però, c'è Woodstock. Dal 15 al 18 agosto del 1969, all'apice della diffusione della cultura hippie, centinaia di migliaia di persone si riuniscono a Bethel, una piccola città rurale nello stato di New York, per godersi 3 giorni di pace e musica. È il Festival di Woodstock. Se la maggior parte degli abitanti della zona si oppone subito, invece Elliot Tiber, il proprietario del motel El Monaco, fiuta l'affare e offre agli organizzatori il terreno della sua tenuta più quello di altri allevatori vicini. È la storia raccontata da Motel Woodstock di Ang Lee. Qui dice che una roba hippie verrà cancellata se non trovano un posto dove fare il concerto. Wow, Janis Joplin, Jimi Hendrix, gli Who. Rifiutati dai residenti. Che fregatura. Vorrei parlare con la Woodstock Concerti. Il palco viene costruito alla base di una conca naturale, in modo che tutti, dalle colline intorno, possano vedere le esibizioni. Sul fondo c'è uno stagno dove i partecipanti fanno il bagno nudi. Tra droghe, collane e amore libero, la prima giornata è dedicata ai musicisti folk. Richie Havens, dopo 7 bis, esaurisce il repertorio e improvvisa Freedom, mentre John Baez canta al sesto mese di gravidanza. Le band legate al Fillmore vanno in scena il sabato e Bill Graham, insieme a Janis Joplin, Grateful Dead e Jefferson Airplane, insiste perché si esibisca anche Carlos Santana, che a parte nel circuito locale è ancora uno sconosciuto. Tutte le perplessità vengono accantonate perché è impossibile all'impresario delle mille vite dire di no. Ancora una volta la storia dà ragione a Bill Graham. Waiting, You Just Don't Care, Savior, Jingo, Persuasion, Evil Ways. Il pubblico applaude senza un attimo di respiro, ma è con gli 11 vorticosi minuti strumentali di Soul Sacrifice che Santana, con la sua Gibson SG Special, infiamma la platea. Salito sul palco come un chitarrista qualsiasi, scende dalla scaletta da super divo. La Columbia tira fuori le registrazioni dal cassetto e mette immediatamente l'album nei negozi, proiettandolo nell'Olimpo del rock. Nella lista dei 100 più grandi chitarristi di tutti i tempi stilata da Rolling Stones, lo sciamano Carlos Santana figura al 15° posto, nonostante gli alti e i bassi della sua carriera, determinata in gran parte dalla voglia di non piegarsi ai compromessi. Bill Graham, invece, dopo Woodstock, nella sua vita, ha visto aprirsi e chiudersi molti altri capitoli. Ha inaugurato un Fillmore anche a New York, e poi li ha chiusi entrambi. Ha promosso indimenticabili tour dei Rolling Stones, concerti di beneficenza. Ansioso di ritrovare se stesso, si è rifugiato su un'isola greca, per poi ricomparire di fianco a Bob Geldof in occasione del primo Live Aid. Ha recitato in Bugsy con Warren Beatty e interpretato il promoter nel film di Oliver Stone sui Doors. No, io un nome ce l'ho, i Doors. Vuoi dire le porte della mente, il libro di Huxley? Le porte della percezione, l'acido. Magnifico. Quando le porte della percezione saranno purificate, all'uomo tutto apparirà come realmente è, infinito. È William Blake. Sì, mi piace. Pioggia, vento e un palo dell'alta tensione. Un terribile incidente in elicottero a Vallejo, California, si porta via Bill Graham nel 1991 a soli 60 anni, mentre sta tornando da un concerto organizzato al Cordon Pavilion, lontano appena 20 km. Ebreo di nascita, nomade per destino, Graham ha fatto di San Francisco la sua città e lei lo ha ricambiato dando al Civic Auditorium il suo nome. Al concerto gratuito organizzato al Golden Gate Park sono 300.000 le persone che gli rendono omaggio come lui avrebbe voluto, celebrando la musica. Santana, testa bassa e lacrime agli occhi, si stringe ai Grateful Dead, ai Journey, alla band riunita di Crosby, Stills, Nash e Young. Con Bill Graham se ne va un'epoca, ma non l'eredità di quello che è stato. E il giovane messicano diventato una star, ancora oggi in camerino, con la chitarra sulle gambe e le dita tra le corde, pensa che la storia spesso è dietro le quinte.